Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Frankenstein. Chiuso entro la mia creta, t'ho forse chiesto io, fattore, di diventar uomo. T'ho forse chiesto io di trarmi dalle tenebre. John Milton, Paradiso Perduto. Alla signora Saville, Inghilterra, 5 agosto 1700 e... Ci è capitato un episodio così strano che non posso fare a meno di registrarlo, anche se, con ogni probabilità, ti rivedrò prima che queste carte possano giungere fra le tue mani. Lunedì scorso, 31 luglio, eravamo quasi completamente circondati dal ghiaccio che stringeva la nave da ogni parte, lasciandole a stento un tratto di mare dove galleggiare. La nostra situazione era piuttosto critica, tanto più che eravamo immersi in una nebbia fittissima. Gettammo quindi l'ancora, nella speranza che si verificasse qualche mutamento di tempo e di visibilità. Verso le 2 la nebbia si sollevò e noi scorgemmo in ogni direzione vaste e irregolari pianure di ghiaccio che sembravano sconfinate. Alcuni dei miei compagni presero a gemere e anche nel mio animo cominciavano ad affollarsi pensieri inquietanti quando uno strano spettacolo attirò a un tratto gli sguardi di tutti, distraendoci dai timori per la nostra situazione. Vedemmo un carro basso, attaccato a una slitta e trascinato da cani, passare verso nord, a mezzo miglio circa di distanza. Un essere di forma umana, ma apparentemente di statura gigantesca, sedeva sulla slitta e guidava i cani. Seguimmo con i nostri cannocchiali la rapida corsa del viaggiatore fino a quando egli non scomparve in lontananza fra le irregolarità del ghiaccio. Questa apparizione suscitò in noi una profonda meraviglia. Pensavamo di essere molte centinaia di miglia distanti da terra, ma questo incontro sembrava dimostrare che non eravamo così lontani come avevamo immaginato. Tuttavia, chiusi come eravamo fra i ghiacci, ci riusciva impossibile seguirne la pista che avevamo osservato con la massima attenzione. Circa 2 ore dopo questo avvenimento avvertimmo il movimento del mare e prima di sera il ghiaccio si spezzò, liberando la nave. Restammo tuttavia all'ancora fino al mattino per paura di incontrare, nelle tenebre, quegli enormi blocchi galleggianti che vanno alla deriva dopo la rottura del ghiaccio. Approfittai di questa pausa per concedermi qualche ora di riposo. Al mattino, però, appena fu chiaro, salì sul ponte e vidi tutti i marinai su un lato della nave, all'apparenza intenti a parlare con qualcuno in mare. Si trattava in realtà di una slitta, simile a quella che avevamo già visto, che durante la notte era stata trascinata fino a noi su una grossa lastra di ghiaccio. Uno solo dei cani era rimasto vivo, ma nella slitta c'era un essere umano, che i marinai cercavano di persuadere a salire a bordo. Thank you. costui non era, come ci era apparso l'altro viaggiatore, un abitante selvaggio di qualche isola sconosciuta, ma un europeo. Quando uscì sul ponte, il nostromo disse: «Ecco il nostro capitano, che non vi lascerà certo morire in mare aperto». Vedendomi, lo sconosciuto mi si rivolse in inglese, anche se con accento straniero. «Prima che salga a bordo della vostra nave, volete avere la cortesia di informarmi dove siete diretti?» disse. Puoi immaginare il mio stupore nel sentirmi rivolgere una simile domanda da un uomo sull'orlo della tomba, per il quale avrei immaginato che la mia nave rappresentasse una risorsa più preziosa di qualsiasi ricchezza che la terra può offrire. Risposi comunque che eravamo in viaggio di esplorazione verso il Polo Nord. Apparentemente soddisfatto della mia spiegazione, acconsentì a salire a bordo. Buon Dio, Margaret, se avessi visto l'uomo che contrattava a questo modo la sua salvezza, il tuo stupore non avrebbe avuto limiti. Le sue membra erano quasi congelate, il suo corpo spaventosamente emaciato per la fatica e per le sofferenze. Non ho mai visto un uomo in condizioni tanto disperate. Tentammo di trasportarlo in cabina, ma appena lasciata l'aria aperta, svenne. Lo riportammo allora sul ponte e lo rianimammo frizionandolo con acquavite e costringendolo a inghiottirne qualche sorso. Appena diede segni di vita, lo avvolgemmo in coperte e lo adagiammo accanto al tubo della stufa della cucina. A poco, si riprese e mangiò qualche cucchiaio di minestra, il che gli giovò notevolmente. E passarono così due giorni, prima che fosse in grado di parlare, e spesso temetti che le sofferenze lo avessero privato della ragione. Non appena si fu ripreso a sufficienza, lo feci trasportare nella mia cabina e mi presi cura di lui, per quanto i miei doveri me lo permettevano. Non ho mai visto una creatura più interessante. I suoi occhi hanno un'espressione selvaggia, quasi folle, ma ci sono momenti in cui, se si ha qualche gentilezza nei suoi riguardi o se gli si rende il più piccolo servigio, il suo viso si illumina come di un raggio di bontà e dolcezza di cui non ho mai visto l'eguale. Ma di solito è malinconico e disperato, e qualche volta digrigna i denti come se non riuscisse a sopportare il peso di dolori che lo opprimono. Quando il mio ospite si fu un poco ripreso, feci molta fatica a tenere lontani gli uomini che volevano porgli centinaia di domande, ma non potevo esporlo al tormento della loro futile curiosità in condizioni di corpo e di spirito a cui solo il riposo più assoluto poteva recare giovamento. Ma una volta il comandante gli chiese come mai si fosse avventurato così lontano sul ghiaccio con un veicolo tanto strano. Il suo volto assunse istantaneamente un'espressione di profonda tristezza, ed egli rispose: «Per cercare qualcuno che mi stava fuggendo». «E l'uomo a cui davate la caccia viaggiava come voi?» «Sì», rispose. «Allora credo che l'abbiamo visto. Il giorno prima di raccogliervi, infatti, abbiamo avvistato sul ghiaccio alcuni cani che tiravano una slitta guidata da un uomo». Ciò suscitò l'attenzione dello sconosciuto, che fece moltissime domande a proposito della direzione che il demone, come lo chiamava, aveva preso. Poco dopo, quando rimase solo con me, disse: «Senza dubbio, ho risvegliato la vostra curiosità, come quella di questa brava gente, ma voi avete troppo tatto per chiedermi qualcosa. Certo, sarebbe inopportuno e crudele da parte mia turbarvi con domande dettate dalla curiosità. Eppure mi avete salvato da una situazione ben strana e pericolosa, e caritatevolmente restituito alla vita». Poco dopo mi chiese se, a mio giudizio, la rottura del ghiaccio avesse provocato la distruzione dell'altra slitta. Replicai che non potevo rispondere neppure con approssimazione, perché il ghiaccio Si era spaccato solo verso mezzanotte, e a quell'ora il viaggiatore poteva aver raggiunto un luogo sicuro, anche se non avevo elementi per affermarlo. Da quel momento una nuova vitalità animò il corpo sfibrato dello sconosciuto. Manifestò un forte desiderio di salire sul ponte nella speranza di individuare quella slitta apparsaci in precedenza, ma lo persuasi a restare in cabina perché troppo debole per sopportare i rigori della temperatura. Gli ho promesso che qualcuno vigilerà per lui e lo informerà subito se dovesse apparire qualcosa di nuovo. Tale è il mio diario per quanto si riferisce, fino a oggi, a questo strano episodio. Lo sconosciuto va gradualmente migliorando in salute, ma è silenzioso e sembra a disagio quando entra in cabina qualcuno che non sia io. Tuttavia i suoi modi sono così affabili e gentili che tutti i marinai si interessano a lui, per quanto abbiano pochissime occasioni di parlargli. Per parte mia, comincio ad amarlo come un fratello e il suo dolore costante e profondo mi riempie di simpatia e di compassione. Deve essere stata una nobile creatura nei suoi giorni migliori, se ancora oggi, nella disgrazia, è così amabile e affascinante. In una delle mie lettere, cara Margaret, ebbi a dirti che non avrei certo trovato un amico nel selvaggio oceano, e invece ho trovato un uomo che, prima che il suo spirito fosse prostrato dalla sciagura, sarei stato felice di avere come fratello del cuore. Continuerò a intervalli il mio diario sullo straniero ogni volta che avrò da registrare qualche nuovo avvenimento. Il mio affetto nei riguardi dell'ospite aumenta ogni giorno. Egli mi suscita insieme straordinaria ammirazione e pietà. Come posso vedere, senza soffrire il più acuto dolore, una creatura così nobile abbattuta dalla sventura? È così affabile e insieme saggio. Ha una cultura vastissima e quando parla, le sue parole, benché scelte con raffinata attenzione, fluiscono con scioltezza ed eloquenza impareggiabili. Si è ormai quasi rimesso dalla sua malattia e sta di continuo sul ponte, cercando con gli occhi, pare, la slitta che precedeva la sua. Per quanto infelice, non si abbandona completamente al proprio dolore, ma si interessa molto ai progetti altrui. Mi ha rivolto numerose domande circa i miei piani, di cui l'ho messo a parte senza omettere nulla. È entrato nel merito di tutti gli aspetti favorevoli a un mio eventuale successo e di ogni più minuto dettaglio delle misure che ho preso per conseguirlo. Sono stato facilmente indotto dalla simpatia che mi dimostra a usare il linguaggio del cuore, a dar voce al cocente ardore del mio animo e a spiegare, con tutto il fervore che mi accalorava, quanto volentieri avrei sacrificato la mia fortuna, la mia stessa vita, ogni mia speranza per riuscire in questa impresa. La vita o la morte di un uomo erano un prezzo insignificante da pagare, gli dicevo, per acquisire la conoscenza che bramavo, per il dominio che avrei ottenuto e tramandato sugli elementi che sono nemici della nostra specie. Mentre parlavo, una cupa tristezza si diffuse sul volto del mio ascoltatore. Inizialmente notai che cercava di trattenere l'emozione. Si coprì gli occhi con una mano, al che la mia voce tremò e quindi svanì quando vidi le lacrime scorrergli tra le dita. Un gemito sfuggì al suo petto ansante. Mi fermai, infine gli parlò con voce rotta, infelice. Anche voi condividete la mia follia. Avete bevuto anche voi quel sorso intossicante. Ascoltatemi. Lasciate che vi riveli la mia storia e scaglierete la coppa lontano dalle vostre labbra. Tali parole, puoi ben immaginare, suscitarono la mia curiosità, ma il parossismo di dolore che l'aveva colto aveva sopraffatto le sue deboli forze e quindi furono necessarie molte ore di riposo e di conversazione tranquilla per restituirgli la calma. Una volta assopita la violenza dei propri sentimenti, Sembrò disprezzarsi per essersi dimostrato schiavo della passione e, soffocando la cupa tirannia della disperazione, mi portò nuovamente a parlare di me e mi chiese di raccontargli i miei primi anni. La storia fu presto narrata, ma risvegliò una serie di riflessioni. Gli parlai del mio desiderio di avere un amico, della mia sete di avere un'affinità più intima di quanto avessi avuto sinora, ed espressi la convinzione che un uomo poteva vantarsi di una felicità ben scarsa se non aveva goduto di tale fortuna. «Sono d'accordo con voi», rispose lo sconosciuto. «Siamo creature informi, incomplete. Se una persona più saggia, migliore, più cara a noi di noi stessi, tale dovrebbe essere un amico, non ci presta il suo aiuto perché perfezioniamo la nostra natura debole e difettosa. Un tempo avevo un amico, la più nobile tra le creature, e mi sento quindi in diritto di giudicare dell'amicizia. Voi avete speranza, e tutto il mondo aperto davanti a voi, e non avete motivo di disperarvi. Io, invece, ho perso ogni cosa e non posso ricominciare la vita da capo. Mentre pronunciava queste parole, il suo viso assunse un'espressione di dolore calmo e profondo che mi strinse il cuore, ma non aggiunse altro, e poco dopo si ritirò in cabina. Sebbene il suo spirito sia affranto, nessuno sa gustare più di lui le bellezze della natura. Il cielo stellato, il mare, ogni panorama offerto da queste regioni meravigliose sembrano avere ancora il potere di elevare il suo animo al di sopra delle cose terrene. Un uomo simile ha una duplice esistenza. Può essere vittima del dolore, può essere travolto dalle sciagure, ma quando si chiude in se stesso è come uno spirito celeste avvolto da un alone che tiene lontane pene e follia. Ridi dell'entusiasmo che esprimo nei riguardi di questo divino viandante. Non lo faresti se lo incontrassi. Sei stata istruita e raffinata dalla lettura e tenuta isolata dal mondo, e di conseguenza sei alquanto esigente, ma proprio questo ti rende più adatta ad apprezzare i meriti straordinari di quest'uomo fuori dal comune. Mi sono sforzato, a volte, di capire quale sia la qualità che lo eleva così smisuratamente al di sopra di ogni persona che ho conosciuto. Credo si tratti di intuito, di un'infallibile capacità di giudicare rapidamente, di penetrare le ragioni delle cose che non ha eguali per chiarezza e precisione. Aggiungi a ciò la facilità di espressione e una voce, le cui tonalità sono una musica che soggioga l'anima. Agosto 1700. Ieri lo straniero mi ha detto: «Non vi sarà stato difficile accorgervi, capitano Walton, che sono stato vittima di tremende e inaudite sciagure. Avevo deciso un tempo che il ricordo di tali disgrazie morisse con me, ma voi mi avete convinto a mutare la mia determinazione. Voi cercate conoscenza e saggezza come facevo io una volta, e spero ardentemente che l'adempimento dei vostri desideri non sia una serpe che vi morda come è capitato a me. Non so se il racconto delle mie sciagure potrà tornarvi utile, eppure quando penso che state seguendo il mio stesso percorso, esponendovi agli stessi pericoli che mi hanno ridotto in questo stato, credo che forse potrete trarre dal mio racconto una morale adatta a voi, che possa guidarvi se avrete successo nella vostra impresa, o consolarvi in caso di fallimento. Preparatevi a udire casi che di solito sono ritenuti impossibili. Se ci trovassimo tra scenari naturali più quieti, potrei temere di incontrare la vostra incredulità, forse addirittura la vostra irrisione. Ma in queste lande selvagge e misteriose vi parranno possibili molte cose che susciterebbero il riso di chi non è abituato ai poteri mutevoli della natura. Ma non dubito che il mio racconto abbia in sé le prove sufficienti della veridicità degli eventi che lo compongono. Puoi facilmente immaginare quanto mi lusingasse questa sua offerta. Pure non potevo sopportare che egli rinnovasse il proprio dolore con il racconto delle sue sciagure. Sentivo un profondo desiderio di ascoltare la narrazione promessa, in parte per curiosità, in parte per la brama di migliorare il suo destino, se appena ciò fosse stato in mio potere. Espressi tali sentimenti nella mia risposta. «Vi ringrazio per la vostra simpatia», rispose, «ma purtroppo essa è inutile. Il mio destino è pressoché compiuto. Un solo evento attendo ormai, e poi potrò riposare in pace». «Comprendo il vostro sentimento, ma vi ingannate, amico mio, se mi permettete di chiamarvi così. Nulla può cambiare il mio destino. Ascoltate la mia storia e vi accorgerete di quanto irrevocabilmente esso sia fissato». Mi disse poi che avrebbe iniziato il suo racconto il giorno seguente, quando mi sarebbe stato più comodo. Tale promessa provocò da parte mia i ringraziamenti più calorosi. Ho deciso di registrare ogni notte, quando non sarò assolutamente costretto a occuparmi dei miei doveri, e per quanto è possibile, con le sue parole, ciò che egli mi narrerà durante il giorno. Se sarò occupato, prenderò almeno qualche appunto. Questo manoscritto sarà per te, senza dubbio, fonte di grandissimo piacere, ma con quanto interesse e con quanta simpatia lo leggerò io, in qualche giorno futuro, io, che conosco lui e che l'ho raccolto dalle sue stesse labbra. Anche ora, mentre mi accingo al mio compito, la sua voce calda mi risuona nelle orecchie. Quegli occhi lucenti mi fissano con malinconica dolcezza. Vedo la sua mano delicata levarsi nell'animazione del racconto, mentre i lineamenti del viso sono irradiati dal suo spirito. Ben strana e dolorosa deve essere la sua storia. Spaventosa la tempesta che ha avviluppato la coraggiosa imbarcazione nel corso del suo viaggio e l'ha fatta naufragare così.